Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a tutti da Salva Danaio. L'RC Auto rappresenta una voce che continua ad incidere in modo discretamente pesante sul bilancio delle famiglie ed è una voce sulla quale bisognerebbe intervenire operando una riduzione di almeno il 10-15%. Invitiamo pertanto le compagnie ad agire riducendo i costi piuttosto che aumentare le tariffe. Sono tornate a chiederlo alcune associazioni dei consumatori sulla scia di quanto ha affermato la settimana scorsa il presidente dell'ISVAP, l'autorità di vigilanza sul settore assicurativo, Giancarlo Giannini, che nella sua relazione annuale ha espresso preoccupazione in relazione alla prospettiva indicata dalle compagnie, vale a dire la prospettiva che ci possa essere un aumento dei prezzi dell'RC auto, perché a causa della crisi nel 2008 quest'area dei bilanci delle compagnie risulta in perdita. Ma a parte i commenti su queste posizioni, che magari stamattina continueremo anche a fare grazie a voi se vorrete all'800 24 00 24, oggi vorremmo rifare anche il punto sulle vie che possono essere praticate per permettere agli automobilisti di risparmiare sulle polizze assicurative per l'auto. È stata formalizzata l'iniziativa del preventivatore ISVAP, di cui noi di Salva Danaio avevamo già ampiamente parlato, ma oggi ritorniamo a spiegarvene il funzionamento. Ma vogliamo fare anche una cosa in più: mettere a confronto l'attività della compagnia diretta, la cosiddetta compagnia online, perché queste nuove compagnie che hanno proliferato sul mercato negli ultimi anni hanno dato una bella scrollata alla concorrenza nel settore, ma la vogliamo, dicevo, mettere a confronto con l'attività degli agenti tradizionali, perché vengono privilegiati ancora in larga parte da quegli assicurati che preferiscono il rapporto personale con la compagnia. Insomma, ne abbiamo di cose da discutere questa mattina. Il numero verde per voi è ancora l'800 24 00 24. Forniteci anche la vostra percezione sui prezzi dell'RC auto, perché qua se da una parte le compagnie sostengono che almeno nell'ultimo decennio il trend è stato in continuazione di discesa, le associazioni dei consumatori rilevano addirittura invece che, pensate, c'è una stima di ADUSBEF e Federconsumatori secondo la quale dal 1996 al 2008 le RC auto sono salite del 149%, per cui qua, insomma, capire dove sta la verità non si riesce a dipanare questa matassa. In ogni caso, che è un settore che avrebbe bisogno ancora di maggiore concorrenza, lo ha sostenuto stamattina anche il presidente dell'antitrust nella sua relazione annuale, Antonio Catricalà. Poi magari vi darò qualche dettaglio in più rispetto anche alle sue dichiarazioni su questo punto. Numero verde ve l'ho ricordato, ci potete scrivere al 349-238-6666. Con chi potrete chiacchierare oltre che con me questa mattina? Con Maria Luisa Cavina, responsabile tutela utenti dell'ISVAP, con Giovanni Teofilo Chiarelli, responsabile area commerciale marketing di Linear Assicurazioni, che è la compagnia diretta del gruppo Unipol, e Giovanni Metti, presidente del Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione, che appunto ci rappresenta il canale tradizionale di vendita degli strumenti assicurativi. Un'occhiata alla borsa prima di partire, la borsa che oggi tenta di rialzare la testa con scarso successo, anzi quasi senza alcun successo, dopo i forti ribassi di ieri che hanno portato l'Europa a bruciare, so che a voi non piace questo termine, ma nel gergo finanziario e giornalistico questo va utilizzato, circa 100 miliardi di capitalizzazione nell'Eurozona tra le borse del vecchio continente, e oggi appunto un tentativo di risalita, ma vedo che non è granché, è un po' più consistente quello di Londra che sta guadagnando lo 0,45%, Parigi più 0,20%, Francoforte da almeno un'ora inchiodata su quello zero e non si muove da lì, mentre addirittura Milano non ci ha neanche provato e sta perdendo anche oggi sul FTSE MIB lo 0,99%, quindi praticamente un punto percentuale. Allora cominciamo a vedere i titoli che stanno trascinando a ribasso. Piazza Affari sono in pregilo, meno 4,30, il Banco Popolare meno 3,15, Geox meno 2,66, stanno perdendo 2,5 punti, CIR, Pirelli, Fondiaria perde il 2,32, meno 2 anche per Unipol, per Unicredit, per Intesa San Paolo, Fiat meno 1,73, Lingotter ha partito con un rialzo di un punto sulla scia delle indicazioni sulle immatricolazioni auto in Europa a maggio, che per il mercato complessivamente è ancora negativo, mentre Fiat ha incrementato le sue vendite del 2%, però insomma questo risultato non è stato oggi premiato granché dalla borsa. Il segno più invece stamattina è su Ansaldo, più 1,73%, il gruppo comunicato di aver messo a segno un'importante operazione in Arabia Saudita, si è aggiudicata un contratto da 149 milioni di euro per la progettazione e per la messa in servizio della prima metro automatica nel campus universitario femminile a Riyadh, che è il più grande del mondo, per cui oggi una buona notizia che viene appunto colta positivamente dal mercato. Rialzo di A2A di un punto, Enel più un punto, Buzzi più 0,30, l'automatica più 0,25%. Oggi abbiamo moltissimi dati che arriveranno dagli Stati Uniti. Intanto l'euro stamattina, dopo l'indice di fiducia tedesco ZEV, che è risultato molto migliore delle attese e che è stato totalmente trascurato dalla borsa, è stato invece preso in considerazione dal mercato valutario, perché l'euro sul dollaro si è riportato sopra quota 1,39, ma vedo che già ha riperso questa soglia e adesso il dollaro è in rimonta 1,38,76. Il petrolio è ancora a $70 al barile, anche questo è un segnale che non piace particolarmente al mercato, ma questo è quello che abbiamo in questo momento. Direi di lasciare la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina. RC Auto, quanto mi costi? La crisi non guarda in faccia nessuno. Anche i grandi colossi hanno dovuto infatti pagare il loro conto, ed è stato salato. Il settore assicurativo, in particolare, ha archiviato il 2008, per molti diventato l'annus horribilis, con un calo del 7,2%. E se il 2009 sembra essere iniziato meglio, con una raccolta in crescita del 15%, spinta soprattutto dal settore vita, l'RC Auto continua ad andare male e, dopo aver chiuso il 2008 con una perdita del 3%, vede già un meno 5,2% nel primo trimestre di quest'anno. Perdite economiche pesanti sono solitamente l'anticamera di nuovi rialzi delle tariffe, come in parte preannunciato a fine maggio dal presidente dell'ANIA, Cerchiai, ma le associazioni dei consumatori non ci stanno e chiedono invece di non toccare gli attuali listini, se non eventualmente per ribassarli. Le tariffe dell'assicurazione obbligatoria sui veicoli sarebbero infatti già cresciute di circa il 5% nei primi mesi del 2009, ultimo aumento di un'escalation che ha visto i costi dell'RC Auto aumentare del 145% negli ultimi 10 anni. Le associazioni di consumatori chiedono pertanto una riduzione di almeno il 10-15% delle tariffe di assicurazione e invitano le compagnie a seguire il consiglio del presidente dell'ISVAP, Giannini, ad agire riducendo i costi piuttosto che aumentare le tariffe, puntando a una reale concorrenza anziché contrastare i primi elementi di competitività inseriti con i decreti Bersani. E proprio per andare incontro ai portafogli degli automobilisti e stimolare la concorrenza, l'ISVAP ha lanciato nei giorni scorsi uno strumento informatico, il cosiddetto preventivatore, che si può trovare su internet per confrontare, sulla base della convenienza economica, i preventivi RC Auto di tutte le compagnie operanti sul mercato. Come abbiamo già avuto modo di dire l'altra volta, le ultime volte in cui abbiamo trattato questo argomento, davvero l'RC Auto, in quanto ha successo fra gli ascoltatori, forse è il tema secondo solo ai mutui, a giudicare già da quello che sta accadendo ai centralini in questo momento, all'800240024. Cercheremo di sentirvi nella misura maggiore possibile. Prima però devo dare un'informazione di servizio, una bella notizia. Anche Radio 24 partecipa all'iniziativa di beneficenza Radio Amiche per l'Abruzzo, mandando in onda in diretta, con un segnale unico per tutte le 12 radio nazionali coinvolte, il concerto che si terrà allo stadio di San Siro domenica prossima, 21 giugno. La diretta sarà a partire dalle 19:30, in realtà il concerto inizia molto prima, ma anche questa insomma è un'iniziativa che ci sembrava utile segnalarvi. Lo sapete, è un'iniziativa appunto sponsorizzata e voluta fortemente dalla cantante Laura Pausini, che ha visto coinvolte tutte le principali artiste, le cantanti appunto del nostro paese. Quindi appuntamento a domenica prossima, 21 giugno, anche dalle frequenze di Radio 24 a partire dalle 19:30. Un ascoltatore chiede un commento, tornando in borsa, su Pirelli Real Estate. Sta volando il titolo, sta andando avanti l'aumento di capitale, per cui questo è quanto le possiamo dire a proposito di questo volo più 25% anche oggi. Lasciamo la borsa. Allora, dottoressa Cavina dell'ISVAP, buongiorno e bentornata tra di noi. Buongiorno, grazie. Sono molto contenta di partecipare oggi perché posso parlare della realizzazione di un progetto importante al quale tenevamo molto. Lo so, intanto è vero che noi anche lo avevamo preannunciato molto spesso a Salvadanaio ed eravamo anche un po' preoccupati quando invece il lancio stava avvenendo con ritardo, ma le motivazioni ci sono anche di natura prettamente tecnica, perché mettere a confronto su questa piattaforma tutta l'offerta di tutte le compagnie è stato un lavoro arduo. Saluto anche Giovanni Chiarelli, lì Linear Assicurazione. Dottor Chiarelli, benvenuta a Salvadanaio. Buongiorno dottoressa Rosciani, buongiorno a tutti i suoi ascoltatori e agli altri ospiti. Grazie, grazie anche a Giovanni Metti, neopresidente del Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione, da pochissimi mesi ha assunto questo impegno. Metti, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie di avermi invitato, ringrazio anche un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Benissimo, abbiamo salutato tutti, ci siamo salutati tutti, allora io invece di cominciare con il consueto giro di considerazioni vostre sul tema che abbiamo posto alla vostra attenzione, quindi intanto le tariffe dove andranno, ha ragione l'ISVAP che dice, insomma, vediamo di non far pagare ai consumatori la crisi delle compagnie di assicurazione, posizione peraltro ribadita stamattina dal presidente dell'antitrust, Catricalà, che ha detto la crisi non si riversi sui consumatori, oppure insomma dobbiamo condividere in qualche maniera e accettare la posizione dell'ANIA, l'associazione appunto delle compagnie, che dice non vediamo alternative rispetto a questo. Qualche tendenza verso la ripresa dei premi a quanto pare c'è, adesso su questo appunto torneremo con i nostri commenti. Io prima però voglio sentire subito un ascoltatore, che è Ferdinando dalla provincia di Brescia, che si fa qualche interrogativo su questi preventivatori che stanno circolando. Ferdinando, buongiorno, perché oltre a quello dell'ISVAP ce ne sono tanti di iniziativa privata. Ferdinando, eccoci a lei. Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Faccio una premessa, io sono un agente di assicurazione, quindi la mia valutazione è un po' tra virgolette drogata dalla mia attività. In tutti i casi non ho avuto modo di verificare con attenzione il preventivatore, però mi sentivo di fare un'osservazione di questo tipo. Dovrebbe servire ovviamente a stimolare la concorrenza e a mettere l'utente, a far avere insomma l'utente l'idea di quello che può essere il risparmio tra le 60 e passa compagnie che operano in Italia. Essendo un prodotto così complesso, quello dell'RC auto, e mi riferisco in generale anche a tutto ciò che sta dietro a una polizza auto, non rischia di diventare uno strumento che, anziché produrre degli effetti in realtà, o meglio, li produce di sicuro quelli che sono gli effetti, ma rischia di rimanere limitato se poi l'utente in realtà, visto anche le grosse possibilità di sconto che hanno le agenzie, parlo in particolare quindi del canale agenziale, quello diretto, non si rischia di vanificare il tutto se l'utente non passa presso una, due, tre agenzie di assicurazioni per cercare di capire meglio quali sono poi gli elementi di risparmio di ogni singola compagnia. Ferdinando, finisco soltanto dicendole questo. Ho aggiunto questo discorso dell'RC auto ritenendo che il prodotto non possa essere disgiunto da tutte le altre garanzie accessorie utili che gli vanno dietro e che l'utente ha bisogno di essere stimolato passando in agenzia. Grazie. Grazie a lei Ferdinando. Guardi, io le voglio raccontare un episodio, anche se qua poi stiamo cominciando anche un po' tardi a chiacchierare con i nostri ospiti. Ero a cena con un mio amico sabato sera e lui mi ha raccontato il motivo per cui sceglie la compagnia tradizionale piuttosto che la compagnia diretta, perché fa l'agente di commercio, lavora per una grande società di telecomunicazioni, sempre in giro con la macchina, per cui per lui perdere tempo dietro, me l'ha descritta così la situazione, a un call center per risolvere i suoi problemi quando incappa in un sinistro, in situazioni di questo tipo, ecco perché preferisce appunto avere magari un amico assicuratore che gli gestisca tutta la pratica quando questa questione si rende necessario. Pertanto io capisco anche che molto spesso, insomma, questi strumenti informatici, chiamiamoli così, vengono un po' guardati con una certa dose di apprensione dal canale tradizionale assicurativo. Probabilmente anche ha ragione per certi versi, però dottoressa Cavina, allora come fa il preventivatore ISVAP a fugare i dubbi del nostro agente che ci ha chiamato da Brescia? In questo modo, secondo me, cerco di essere molto, molto sintetica. Secondo me è un enorme vantaggio per il consumatore poter avere la possibilità di disporre con grande facilità da casa sua, se vuole, o da un punto internet, oggi è talmente diffuso lo strumento, avere a disposizione in poco tempo un quadro complessivo. Questo quadro complessivo, che è sicuramente un quadro di orientamento sul listino prezzi dell'RC auto da parte di tutte le compagnie che operano in Italia, così facilmente accessibile, sicuramente gli consente di rivolgersi, di selezionare, individuare il range di offerte che più gli sembrano interessanti e in un secondo momento accedere a tutte le altre possibilità che questo mercato così articolato dell'RC auto offre, come giustamente non ultima, anzi prima fra tutte per importanza del canale distributivo, quello della rete agenziale. Mi spiego meglio. Il preventivatore, l'abbiamo detto in mille modi, è uno strumento importante di orientamento, è ovvio che non può tener conto della scontistica. Il fattore sconti è un aspetto molto importante per l'equilibrio del mercato e anche per le tasche dei consumatori, perché noi sappiamo che oggi l'RC auto si paga in relazione non soltanto a quello che è il listino prezzi, ma anche alla, a una importante componente di sconti. Ma è, secondo me, fondamentale andare a negoziare uno sconto, visto dal lato del consumatore, del cliente, andare a negoziare uno sconto quando si dispone di un'informazione facilmente reperita e complessiva rispetto a un consumatore che magari va soltanto a rivolgersi presso qualche punto vendita o presso i punti vendita per pigrizia della compagnia presso la quale tradizionalmente si serve. Noi abbiamo detto tante volte che va incentivata anche quella che è la condotta attiva del consumatore. Dopodiché è chiaro che non possiamo sostituirci alle abitudini del singolo, alle abitudini dell'utente, e non abbiamo alcuna intenzione di disintermediare il mercato. Questo deve essere uno strumento potente che si affianca ad altri strumenti potenti che abbiamo individuato in passato, come la consegna dell'attestato di rischio al domicilio, e che mette in condizione un consumatore di avere facilmente tutto il set di informazioni che gli consentano poi di sfruttare al meglio le offerte, anche in termini di sconti, anche in termini di pacchetti personalizzati. Non ci dimentichiamo che esiste anche una certa adesso dinamicità dal punto di vista delle offerte di prodotto da parte delle imprese, che noi tra l'altro come autorità di vigilanza tendiamo a incentivare, perché riteniamo che sia una delle strade per dare un assetto concorrenziale al mercato e per favorire anche la discesa dei prezzi. Quindi, insomma, è solamente tra virgolette, mi passi questo termine, una grande vetrina attraverso la quale si può avere una visione complessiva, la più ampia possibile, quasi totale se vogliamo, delle polizze che possono essere praticate a me come consumatore sulla base del mio profilo. Quindi una volta che ho visto quello che c'è sul mercato, posso andare in agenzia, così come posso rivolgermi ad una compagnia diretta. So che voi, in maniera trasparente, questo mi rivolgo alle compagnie, avete passato queste informazioni all'ISVAP, che le ha messe a disposizione di noi tutti sul preventivatore, pertanto in questa maniera so come posso orientarmi sulla base delle mie esigenze. Questo è lo scopo. Sì, ma il presupposto per qualsiasi tipo di negoziazione efficace è l'informazione. Certo. Quindi è esattamente questo lo scopo che ci prefiggevamo, e siamo molto soddisfatti di averlo realizzato. Ecco, tra l'altro formalmente, dottoressa Cavina, siete partiti appunto proprio con l'annuncio del presidente della settimana scorsa, ma noi lo avevamo già preannunciato a Salvadanaio almeno 2 mesi fa. Avete già avuto modo di vedere come viene testato dai consumatori? Guardi, ci sono stati molti click? La mia soddisfazione è anche questa, perché i dati sono veramente positivi. Le dico, il dato più aggiornato che ho in mano, quello di stamattina, abbiamo circa 21.000 richieste. 21.000? Dalla mattinata di giovedì 11 giugno ad oggi abbiamo circa 21.000 richieste. Quindi, insomma, la sensazione che ci fosse... Sì. Ce n'era bisogno, vede? Esattamente. Ce n'era bisogno. Tra l'altro volevo anche precisare che si chiama Tuo Preventivatore... questa è la dizione appunto istituzionale di questo strumento. Qualcuno lo ha chiamato addirittura il castigapolizze, anche questa è una cosa molto divertente. Eccoci di nuovo a Salvadanaio, oggi ritorna su un tema che vi piace sempre particolarmente, il tema dell'RC auto. Vi abbiamo presentato in via formale finalmente, perché funziona a pieno regime da settimana scorsa, 21.000 click su questo sito, Il Tuo Preventivatore, lo strumento realizzato dall'ISVAP con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo Economico per confrontare i preventivi RC auto di tutte le compagnie che operano sul mercato italiano. Tra l'altro un servizio gratuito e anonimo, ma ovviamente qualcuno lo guarda un po' con sospetto. In particolar modo abbiamo sentito le perplessità di un agente assicurativo, e allora io vorrei, dopo che abbiamo sentito le considerazioni di questo, sentire un po' chi li rappresenta tutti. Giovanni Metti, presidente del Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione, che come dicevamo ci rappresenta anche un po' il canale tradizionale di vendita degli strumenti assicurativi. Metti, eccoci di nuovo a noi. Allora, vi spaventano così tanto questi preventivatori? Questo è quello istituzionale, dicevamo anche che ci sono quelli di iniziativa privata, poi magari li cito così facciamo contente anche queste società. Sì. No, devo dire che in effetti noi non ci spaventa, anche se condivido molto quello che è stato detto dal mio collega che io non conosco di Brescia. Devo dire che non ci spaventa affatto la cosa, è giusto quello che è stato detto, che questo è semplicemente un preventivatore che dà delle indicazioni di massima dove il punto di riferimento fondamentale è il prezzo. Naturalmente noi agenti di assicurazione diciamo, ed è giusto dirlo, che non è sufficiente fare un confronto soltanto fra i premi di assicurazione, ma bisogna fare del confronto fra le garanzie che sono contenute nelle polizze di assicurazione. E fare un confronto e fare anche un esame attento rispetto a quello che ci serve. Esatto. Ecco, perché noi diciamo che a livello non possiamo noi essere contrari a tutto ciò che è trasparente. Noi siamo sempre stati favorevoli a questo e quindi non possiamo essere contrari in questo momento. Noi diciamo che per poter fare una scelta consapevole bisogna vedere oltre che il premio anche tante altre cose che determinano poi il premio di assicurazione. Tant'è vero che noi degli agenti di assicurazione abbiamo fatto uno studio che presenteremo con un evento a settembre o ad ottobre dove mettiamo a confronto non solo il prezzo delle polizze di assicuratore ma tutto un insieme di garanzie che ci sono nelle varie polizze presenti sul mercato delle quali sono anche alcune molto penalizzanti. Penso soltanto alla rivalsa in caso di guida di stato di ebbrezza, certo. Una cosa che all'ordine del giorno molto delicato, molto pericolosa la cosa. Ecco, ma quando segretario Metti le dicono, comunque abbiamo sentito anche dalla dottoressa Cavina, che magari lo strumento del preventivatore può essere utile per individuare l'offerta media che c'è sul mercato, certo. E si può prendere quel riferimento per venire poi dall'agente tradizionale per chiedere uno sconto. Le piace questa interpretazione? Ma l'interpretazione dello sconto ormai purtroppo perché lo sconto diventa una cosa fatta in modo particolare ad uno e non all'altro, diventa una cosa che secondo me ha qualche problema per quanto ci riferisse una polizza di assicurazione RC Auto, che è una polizza obbligatoria, che ha una funzione di tipo sociale, perché ha una funzione di indennizzare il danneggiato, non tanto di salvaguardare il patrimonio della persona che ha procurato il danno. D'altra parte noi non la vediamo male, perché in realtà ormai il mercato è fatto anche di sconti, è fatto di una personalizzazione esasperata del premio di assicurazione, il che secondo me però penalizza. Termine esasperata non è, quindi lei non la condivide la personalizzazione? No, io credo che sia una cosa ormai da ripensare un po' la personalizzazione esasperata, perché mi trovo a dover fare delle considerazioni parlando con i miei colleghi che ci sono alcune aree forse più nel sud che non nel nord, dove per una brava persona che deve assicurare il motorino del proprio figlio spende 4-5 volte di quanto spende una persona invece che abita in una localizzazione diversa. Sì, vabbè. Quindi essendo invece una polizza di assicurazione RC Auto obbligatoria e valida per tutto il territorio nazionale, forse sul fatto delle personalizzazione e delle zone tarifarie forse qualche cosa per essere più giusti bisognerebbe pensare, io penso. Va bene, allora io ho due ascoltatori in attesa, chiedo ancora loro proprio pochissimi minuti di pazienza perché altrimenti Chiarelli di Linear penserà che l'ho invitato così giusto per stare ad ascoltare gli altri ospiti. E Chiarelli, ancora buongiorno. Allora le voglio leggere un messaggio di un ascoltatore che così ci esprime le sue perplessità rispetto all'utilizzo di una compagnia diretta, perché così si chiamano. Come fidarsi di un rapporto basato sul telefono se le altre aziende tipo telefoniche da anni promettono ottima assistenza a distanza e questa costantemente risulta più che deludente? La sostanza della domanda è: come affidare al telefono una cifra così ingente come l'assicurazione? Ma insomma dietro al telefono non c'è nessuno, dice l'ascoltatore, ma le cose non stanno esattamente così. Io ovviamente parlo per linea, certo. Dietro al telefono c'è Beh, spero che anche le altre società utilizzino qualche persona dietro ai call center. Assolutamente. Però insomma qui manca il rapporto diretto, per cui dice insomma come fa un telefono comunque il call center a individuare le mie esigenze, a darmi una risposta coerente con il mio profilo. Sì, allora parliamo di linea, parliamo di giovani, di una giovane compagnia che fa parte di un gruppo assicurativo estremamente importante in Italia, che in primo luogo ci mette la faccia e quindi non ha alcun interesse a gestire dei clienti senza dargli quel servizio che di fatto ha contraddistinto poi le epoche della sua crescita. Questo significa quindi che dietro non ci sia nessuno, no? Dietro Linear ci sono 250 professionisti che fanno il loro lavoro nel rispondere a tutte le telefonate che ricevono, e c'è poi una struttura totalmente dedicata alla gestione dei sinistri, sia a distanza, quindi a servizio eventualmente anche del suo amico che non aveva tempo da perdere, che eventualmente con una presenza sul territorio quando è necessario per i sinistri un po' più complicati. Senta, quindi senza farle enfatizzare, come dire, i vantaggi dell'utilizzo di una compagnia, gliela metto in maniera diversa, così almeno, perché sennò sembra veramente che qua invitiamo le società per fare pubblicità, sai come le contestazioni che ci arrivano sono sempre 2000, ma qual è, come dire, che cosa perde un assicurato utilizzando una compagnia diretta? So che lei mi dirà assolutamente niente, ma tutto sommato, fisico, diciamo, diretto con l'assicuratore. Scegliendo una compagnia diretta, un assicurato sceglie un modo diverso di assicurarsi, non va più a parlare con un agente o magari con l'impiegata di un agente in agenzia, fa tutto da casa, così come si può fare col preventivatore, piuttosto che dall'ufficio, utilizzando uno strumento più comune che è in possesso di tutti gli italiani, che è il telefono, o per i più evoluti utilizzando internet, anche perché ormai l'accesso a internet direi che è quasi alla portata di tutte le famiglie italiane. Quindi che cosa si perde? Io posso dire che cosa guadagna. Di sicuro non c'è il rapporto diretto con una persona a quattro occhi, se non in alcuni casi quando appunto c'è un sinistro e quando il sinistro ha delle complicazioni particolari. Dottor Chiarelli, ritorniamo al tema da cui siamo partiti. Prevedete tariffe in aumento quest'anno? Allora, qual è la sensazione? Noi dal primo di luglio, noi intanto partiamo da un altro presupposto, noi negli ultimi 2 anni abbiamo calato le nostre tariffe, il nostro premio medio si è abbassato di circa un 5%. Dal primo di luglio abbiamo deciso di adeguare sempre i nostri premi all'inflazione, quindi con un aumento del 3%. Questo ovviamente perché oltre ad avere avuto un premio medio che è calato, abbiamo registrato un peggioramento tecnico, che è poi quello di cui si è discusso anche in tutti questi giorni e da cui anche le compagnie dirette non sono esenti. Allora, senta, ho una domanda per lei di un vostro assicurato, gliela faccio sentire così magari cerchiamo di capire quali sono le sue esigenze. Roberto D'Ancona, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo un chiarimento relativamente alla fidelizzazione. Mi spiego, io dal 2004 ho fatto il salto del fosso passando da una compagnia tradizionale proprio alla Linear. Detta così... Esatto, e devo dire con soddisfazione, perché sono partito con la macchina di mia moglie e ho visto che il servizio era buono. Ovviamente il là mi è stato dato da un aspetto economico che a suo tempo, se non ricordo male, era quello che ci muove adesso come adesso. Roberto, che cosa vuole altro che ci muova tanto lì? Sì, io parto dalla mia esperienza, certo. Tanto è vero che dopo ho allargato la situazione alla moto e buon ultimo a un'altra macchina. Sì. E alla fine di maggio avevo rinnovato la polizza della macchina di mia moglie, a parte che vabbè, lei ha pensato bene di attivare il bonus malus facendo un piccolo tamponamento, quindi sono passato dalla classe 1 alla classe 3, ma al di là di questo, dopo 5 giorni c'avevo la scadenza della polizza della moto e ho chiesto un adeguamento, perché nel frattempo nella mia posta elettronica continuano ad arrivare le offerte delle varie altre compagnie, certo, concorrenti, e facendo un confronto molto, molto casalingo, anche senza preventivatore, esatto, poi ne sono venuto a conoscenza da poco, ma ancora non ho avuto modo di andarlo ad esplorare, ma siamo sicuri che lo farà, sì. E ho fatto un'analisi sulla polizza della moto e ho visto che tra il rinnovo che mi era stato confermato e un'azienda concorrente, posso fare anche il nome giusto per chiarezza, sì, che era la Dialogo, ho visto anche Quix piuttosto che Generatel, e c'erano su 366 euro di rinnovo della mia polizza 85 euro di differenza in meno. Quindi perché che cosa ha fatto? Ancora non ho deciso, perché sto in stand-by fino al 20. La sostanza, Roberto, lei dice: sono un ottimo cliente, ho assicurato tutta la famiglia con voi, ma magari così facendo conoscere la compagnia con la quale è assicurata adesso, che sul mercato le propongono qualcosa di molto meglio, perché non fare un bel pacchetto di sconto cumulativo? Le faccio fare una bella offerta da Chiarelli subito dopo i suggerimenti, perché in viaggio non siamo ancora pronti. Chiarelli, allora la dobbiamo fare al volo? Beh, l'offerta che possiamo fare al volo è chiaramente di consigliare al nostro cliente Roberto di chiamare il contact center di Linear e porre gli stessi problemi esattamente negli stessi termini in cui li ha posti alla radio, proponendo e chiedendo al nostro consulente di avere uno sconto cumulativo. Consideri che in realtà lo sconto il nostro cliente ce l'ha già sul suo motociclo, perché è già assicurato con un'auto, e consideriamo anche che questo è il paradigma della concorrenza. Cioè, noi abbiamo introdotto per primi o tra i primi in Italia la possibilità di passare da una compagnia all'altra senza dare disdetta. È un nostro principio fondante. I nostri clienti possono scegliere ogni anno che cosa fare. Certo, quindi insomma il problema del recesso annuale del contratto di durata non è necessario dare la disdetta. Fino all'ultimo giorno possono scegliere con chi assicurarsi, e diamo anche la possibilità ai nostri clienti che ancora non hanno deciso con chi assicurarsi di avere anche i 15 giorni in più di copertura. Insomma, per dare la possibilità a tutti i nostri clienti di scegliere l'offerta migliore. Poi allora, Roberto ci faccia sapere con Linear come è andata a finire, perché poi richiamo Chiarelli, e se non l'ha accontentata lo bacchettiamo sulle mani. Ma a parte questo, insomma, abbiamo fatto anche il preventivatore in diretta da Salva Danaio questa mattina. L'ultima parte di Salva Danaio dedicata all'RC Auto. Questa mattina tanti argomenti, il timore che i premi possano di nuovo aumentare, insomma questo potrebbe essere un anno che mostra anche una tendenza di questo tipo, e poi il confronto fra l'attività delle compagnie dirette, delle compagnie online, con invece i canali tradizionali di gestione degli strumenti assicurativi legati all'auto, ma non solo. Tanti temi, 800 24 00 24 il numero per le vostre considerazioni. Dottoressa Cavina, responsabile tutela utenti dell'ISVAP, ci ha presentato Tuo Preventivatore, che è il preventivatore istituzionale, quello appunto dell'istituto di vigilanza sul settore assicurativo. C'è un ascoltatore che chiede se il preventivatore funziona anche per l'RC moto. Sì, anche per le moto, ciclomotori e motocicli. Benissimo, quindi. Allora, ricordiamolo, il servizio non è uno strumento di acquisto delle polizze, perché anche questo ce lo stanno chiedendo in molti ascoltatori, paragonando il preventivatore dell'ISVAP alle altre iniziative private che abbiamo già citato, e ne posso ricordare qualcuna. C'è nata da poco assicurazione.it, ma anche cercaassicurazione.it, c'era già sul mercato seisicuro.it. Questi sono dei veri e propri broker. Non è invece questa l'attività del preventivatore dell'ISVAP? No, non è questa l'attività. Tra l'altro nel portale di Tuo Preventivatore c'è una sezione informativa che sinteticamente dà tutte queste indicazioni, compreso il fatto, come abbiamo detto poc'anzi, che non si tratta di uno strumento di acquisto. Ci sono indicazioni utili su come si usa, e nel percorso del portale, cioè nella richiesta di preventivo e quindi tutte le informazioni che vengono richieste all'utente, facoltative che vengono richieste all'utente per ottenere un preventivo, c'è tutta una serie di help che abbiamo cercato di strutturare e anche come linguaggio nella maniera più precisa ma anche più semplice, per essere di vero aiuto al consumatore. Dottoressa Cavina, io immagino che voi abbiate fatto delle simulazioni, visto che stiamo parlando anche di costi. Quando inseriamo un preventivo, una richiesta di preventivo, mettendo dentro le generalità nostre, appunto, e ovviamente quelle che sono le nostre esigenze, visto che stiamo continuando a dire che con le compagnie online si risparmia molto, secondo lei è quasi sempre scontato che nella graduatoria le prime ad uscire come premi più convenienti siano queste, o non è detto? Non è detto, abbiamo visto che a seconda del profilo del consumatore, quindi tutta una serie di fattori, età, abitudini di guida, tutti i dati base, non è detto che sia sempre scontato questo risultato. Certamente le compagnie dirette possono avvalersi del fatto che risparmiano considerevolmente su costi di struttura, poi hanno altre caratteristiche. Comunque anche questo è un aspetto interessante, perché tutte le simulazioni che abbiamo fatto nella fase di preavvio e anche queste dei primi giorni ci danno dei risultati molto variegati, e questo è esattamente poi lo scopo che ci prefiggevamo. Cercare di dare uno strumento che faccia affiorare anche la varietà possibile delle offerte, che stimoli il consumatore a ricercare quella che è la soluzione migliore per lui, Poi sono d'accordissimo con quello che è stato detto prima anche dal rappresentante degli agenti. È vero che il prodotto RC Auto è un prodotto che va valutato come qualunque altro prodotto, sì, del resto, in questo non diverso da tutti gli altri, non soltanto dal punto di vista del prezzo ma anche dal punto di vista del contenuto, e questo è poi messo anche molto in chiaro nelle nostre avvertenze. Resta che il preventivatore ha un suo scopo, una sua funzione e una finalità informativa sui prezzi, una vetrina ampia e completa con un po' di collaborazione da parte del consumatore, che, certo, deve essere disponibile a fornire informazioni e informazioni precise. Qualche dettaglio in più sulle sue generalità: ricordiamo che comunque il servizio è gratuito, è anonimo, si deve rispondere ad un questionario, ma non è neanche necessario, come dire, dichiarare le generalità nel minimo dettaglio, dottoressa Cavina, no? Sì, è sicuramente anonimo, basta un indirizzo valido di posta elettronica e quindi se si vuole mantenere l'anonimato non c'è assolutamente bisogno di dichiarare le proprie effettive generalità. Uh-huh. Poi ci sono informazioni che sono necessarie e fondamentali dal punto di vista sostanziale per avere un data preventivo. Di nascita e ovviamente credo che sia fondamentale. Il sesso, l'età, la città dove si abita. La situazione assicurativa, il contenuto dell'attestato di rischio, questi sono i parametri base sui quali se no una compagnia non è in grado di tariffare. Giustamente, certo. Dopodiché ci sono una serie di altre informazioni che o sono agevolate perché abbiamo messo dei valori di default proprio per far risparmiare tempo all'utente, o comunque sono dati facoltativi. Noi avvertiamo evidentemente, facoltativi significa che il sistema non si blocca se l'utente non compila quei campi. Uh-huh. Naturalmente noi avvertiamo a chiare lettere che maggiore è la pazienza e la disponibilità dell'utente a fornire informazioni, più preciso è il risultato, soprattutto maggiori sono i preventivi che si possono ottenere, perché magari se non forniamo alcune informazioni alcune compagnie non sono in grado di fornire il preventivo. Allora, l'altra cosa che tenevo a dire rapidissimamente, sì, è di fare sempre molta attenzione a dare delle indicazioni precise in risposta al questionario, perché i preventivi che vengono generati dal sistema sono preventivi vincolanti per le compagnie, ma naturalmente lo sono a condizione che le informazioni poi vengano riscontrate come corrette. Certamente. Quindi insomma, preventivi vincolanti per le compagnie, nel senso che se io stampo quello che è il referto del preventivatore e lo porto alla compagnia della cui polizza ho scelto, comunque non devo avere sorprese. La compagnia mi deve riconoscere quel prezzo, naturalmente verificando che gli elementi che io ho inserito, le risposte che ho dato, siano risposte corrette. Senta, le volevo chiedere un'ultima cosa, poi volevo almeno sentire un altro ascoltatore, un ultimo giro di domande anche agli altri due ospiti. Ho letto da qualche parte, su qualche blog, di qualche appassionato del settore che ha già cercato di capire come funziona il preventivatore, però ho letto che per esempio nel momento in cui io inserisco tutte le mie informazioni, prima di avere proprio il responso dell'ISVAP con la graduatoria, chiamiamola così, delle offerte migliori, ci vuole qualche ora, cioè il PDF con l'elenco delle offerte migliori non arriva nel giro di poco. Allora, guardi, qualche ora normalmente no, si tratta anzi di qualche minuto. Si è verificato a causa del successo dell'iniziativa, della grande curiosità. Vi siete intasati in sostanza. Si sono verificati alcuni momenti in cui si sono accodate molte richieste che sono state smaltite un pochino più lentamente. Chiarissimo. Anche questi sono inconvenienti che sono abbastanza naturali quando si avvia un software di questo tipo. Comunque stiamo cercando di ovviare anche a questo. Anche questo problema. Lino da Firenze, se no lei mi manda quel paese e avrebbe anche ragione. Lino? Sì, sono io, non vi mando nessun paese. Dicevo, allora, io ho fatto rotamare una macchina. No? Rapidissimo, Lino. Sì, ho fatto rotamare una macchina. Mi hanno dato il foglio, sono andato all'assicurazione dicendo che avevo comprato un'altra macchina nuova, se la potevano sospendere. Sì? Mi dicono che devo sospendere a 3 mesi. Dico, no, sono 2 mesi. No, io sono sicuro che sono 3 mesi. Allora, guardate una cosa, facciamo così. Voi mi rendete i miei soldi, io vado ad un altro posto. Così hanno fatto, mi hanno dato i soldi. Sono andato a un'altra assicurazione, ma sempre la nuova, non lo dico il nome, sempre diciamo del solito gruppo, dove mi hanno fatto, prima avevo solo RC Auto, ho fatto l'assicurazione RC Auto, ho fatto atti vandalici, ho fatto calamità naturali. Tutto allo stesso prezzo della prima? Brava, tutto solito per essere la prima. Benissimo. Non ho capito il perché di questi motivi che noi si deve sempre subire a ciò che è l'idea di questa gente. No, questo è il mercato, Lino. Noi non dobbiamo subire, dobbiamo alzarci dalla sedia, essere un po' più coraggiosi anche nell'instaurare le trattative, perché il mercato lavora così, per trattativa, pertanto dobbiamo anche essere meno intimoriti nel chiedere, così come funziona con la banca, funziona con le compagnie di assicurazioni. Questo è il mercato, Lino. Pertanto è questo quanto dobbiamo prendere appunto coscienza. Io mi scuso con Chiarelli e Metti, appunto, che non riesco a sentire, la trasmissione è volata, volevo appunto presentare un po' di più il preventivatore, ma avremo sicuramente modo di riconfrontarci su questo tema, perché come vi dicevo gli ascoltatori sono appassionatissimi di auto e di tutto ciò che spendono per questo, non solo degli accessori in pelle, dei migliori comfort, ma anche appunto di quanto spendono per proteggersi quando viaggiano. Quindi grazie molte a tutti. C'era un'ascoltatrice, Anna da Varese, che voleva chiederci perché non fanno le RC auto a puntaggio e agevolazioni per genitori di figli portatori di handicap. Anna, se lei ci vuole scrivere, io rivolgerò questa domanda magari alle principali compagnie e cercheremo magari, se vorrà, anche di trovare una soluzione per lei. Grazie a tutti, a domani.